In questa nuova edizione la BMW Z4 è un'auto unica e bivalente. Lascia la capotta di tela per l'hard top a doppio guscio metallico a scomparsa, che si apre da fermi in 20 secondi. Prima c'erano due versioni, la coupé chiusa e la roadster. Adesso una sola li accontenta tutti. Ha anche più grinta grazie al muso ridisegnato, alla presa d'aria a tutta larghezza sotto la doppia mascherina BMW e i fari dall'aspetto aggressivo. Insomma, se la vedi nello specchietto, ti fai da parte. Rivisitata anche la coda, dalle forme più morbide. Della precedente restano il lungo cofano e le due unghiate sulla fiancata. Su strada è un'auto morbida per la guida rilassata, mentre diventa ruvida e scattosa se si preme il tasto Sport, che setta le sospensioni sul rigido, aggiunge pepe alla centralina e indurisce lo sterzo. Insomma, l'ideale anche per chi cerca vere scariche di adrenalina. Nome: BMW Z4 S-Drive 35i e 30i. Carrozzeria: due porte a due posti. Dimensioni: lunghezza 4,24 m, larghezza 1,79 m. Peso: 1.505 kg. Motore anteriore longitudinale, 6 cilindri in linea. Potenza: 306 cavalli per la biturbo 35i e 258 cavalli per l'aspirata 30i. Trasmissione: trazione posteriore, cambio automatico a 7 rapporti con doppia frizione, solo su versione 35i. Prezzo della 35i da 50.551 euro.